Consentitemi di iniziare con un ricordo personale. Ero studente universitario a Pavia quando fu promulgata quasi 30 anni fa la riforma liturgica ed avevo da poco abbandonato gli studi di letteratura italiana per dedicarmi a tempo pieno a quelli di filologia classica e di letteratura cristiana antica. Ricordo le inevitabili discussioni con il professor Luigi Alfonsi durante e dopo le lezioni di letteratura latina e di letteratura cristiana antica e la sua, del professor Alfonsi, ma anche mia in parte, avversione per la nuova liturgia italiana della Messa. Avversione che era sicuramente dettata dal rimpianto del classicista che vedeva ormai conclusa una tradizione secolare, più che dagli arbitri e dagli errori, e tutto tra virgolette, e da certe discutibili novità sia della nuova traduzione in lingua italiana, sia della nuova prassi liturgica. Comparvero allora alcuni studi e degli articoli su riviste nel tentativo, purtroppo non riuscito, di aprire un dibattito sull'argomento anche nel mondo, in vero sempre un po' sordo a questi richiami, dei classicisti. Ricordo anche di aver esaminato, in vista di un'esercitazione di seminario, uno studio di Giovanni Battista Pighi, Osservazioni sul testo italiano della Messa, Bologna 1967, è importante anche la data, e un altro di Alessandro Ronconi, del tradurre i testi ecclesiastici in Atene e Roma 1900, l'annata 14 del 1969. Fu quello il mio primo incontro, virgolette, scientifico, virgolette, con il Nuovo Testamento e con i problemi sollevati dalla traduzione in lingua italiana della Messa. E sicuramente risalgono ad allora le mie prime riflessioni circa la necessità di cercare certe risposte non solo nell'Antico Testamento ebraico ed aramaico, ma anche in tutta la letteratura rabbinica ed intertestamentaria, nonché nella letteratura cunramica, di cui si stavano proprio allora divulgando i testi anche in traduzione italiana, quella di Franco Michelini Tocci è del 1967 e quella di Luigi Moraldi, che allora insegnava a Pavia, è del 1971. Premessi questi ricordi personali, passo direttamente alla trattazione del tema prescelto che solo a relazione conclusa ho deciso di intitolare Bibbia e liturgia, riferimenti biblici nell'ordinario della Messa in lingua italiana. La traduzione italiana dell'ordinario della Messa, come ha già ricordato il professor Falsini, e Falsini ha già anticipato delle cose, ma io darò un taglio diverso al problema. Allora, dicevo, la traduzione italiana dell'ordinario della Messa è apparsa nel 1965, è stata poi leggermente ritoccata per l'edizione del 73, ed è stata quindi ripresa senza modifiche dall'edizione definitiva del 1983. Essa presenta numerosi semitismi, nonché numerosi grecismi e latinismi classificabili come cristianismi diretti, che per le pericopi bibliche risalgono, oltre che precedente ordinario della Messa latina, alle antiche traduzioni della Vetus latina, con la possibilità di risalire ancora più indietro al Nuovo Testamento greco e talora anche all'Antico Testamento, nonché all'età intertestamentaria. Punto primo, i prestiti semitici. Dei 5 prestiti semitici presenti nell'ordinario della Messa latina, Osanna, Alleluia, Amen, Serafim e Sebaot, i primi 3 sono rimasti anche nell'ordinario della Messa in lingua italiana. Il quarto è stato eliminato da tutti i prefazzi tranne 2, dove è stato italianizzato in Serafini, mentre il quinto è stato tradotto con grande vantaggio per la comprensibilità del testo, anche se Sabaoth non è sparito del tutto, in quanto invece di Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell'Universo, è tuttora possibile cantare in latino Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Le lingue sacre, oltre ad essere conservatrici, possono avere talora delle caratteristiche di incomprensibilità, il che le rende antiche, auguste, venerabili ed anche per certi aspetti intoccabili. Quando però si è deciso di tradurre il Dominus Deus Sabaoth del Sanctus, eliminando il semitismo lessicale, non si è potuta tradurre la lettera con Signore Dio degli eserciti, come generalmente si fa quando si traduce Isaia 6:3. Ma basandosi su una tradizione che affonda le sue radici sia in Apocalisse 4:8, Santo, Santo, Santo, il Signore Dio, l'Onipotente, dove onnipotente risale al greco Pantocrator attraverso il latino Omnipotens, sia questa tradizione risale anche all'esegesi patristica, è stata formulata e preferita un'accettabile traduzione teologica Signore Dio dell'universo, che permette di evitare ogni possibile equivoco militaristico ed è anche in linea con il precedente «Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo», che nel nuovo rito della messa introdusse l'offerta del pane e del vino. Sabaoth viene perciò interpretato nel senso delle schiere, delle serie di cose create ordinatamente nei sei giorni del Genesi, ed è assai significativo che in tutti i prefatti italiani siano state semplificate e spesso ridotte alla sola menzione degli angeli sia l'espressione del tipo «per quem maiestatem tuam laudat angeli adorant dominationes tremunt potestates», Celi celorunque virtutes ac beata seraphim socia exultazione concelebrant, sia quelle analoghe che si concludevano con cunque omni militia celestis exercitus. Osanna ed Alleluia mantengono anche in italiano il loro valore di grido di gioia, anche se il primo non è più valutabile, come del resto non lo era né in latino né nel Nuovo Testamento greco, nel suo passaggio semantico da invocazione di aiuto ad acclamazione di gioia. Amen viene invece impiegato come acclamazione liturgica ed elemento conclusivo di preghiere e dossologie che accentua il suo valore etimologico di ciò che è certo e valido. Da allora Amen è preceduto dal semitismo sintattico nei secoli dei secoli, oppure per tutti i secoli dei secoli, esso deriva attraverso il latino in secula seculorum, oppure per omnia secula seculorum, da eis tus aionas ton aionon, che è una neoformazione costituitasi probabilmente presso i 70 per analogia con il sintagma elativo dello stato costituto ebraico, di cui passa dai 70 passa nel Nuovo Testamento, specialmente nell'Apocalisse, per penetrare poi nell'antica liturgia greca. Punto secondo, vado un po' per flash, un po' per schede, perché altrimenti ci vorrebbe molto più tempo. Punto secondo, Kyrie eleison. Le invocazioni greche Kyrie eleison e Christe eleison sono state tradotte efficacemente con Signore pietà e Cristo pietà, espressioni italiane che con il loro ritmo binario sono assai più vicine all'originale greco di una traduzione del tipo Signore abbi pietà che viene solitamente utilizzata dai traduttori dei testi biblici. Nella messa in lingua italiana è tuttavia facoltativo utilizzare ancora accanto a Signore pietà e Cristo pietà le antiche invocazioni greche Kyrie eleison e Christe eleison. Esse sono però ora inserite in una dimensione diversa in quanto se si usa la formula confesso a Dio onnipotente, il celebrante dell'assemblea anziché le nove invocazioni greche della messa latina, tre Kyrie cui fanno seguito tre Christe e altrettanti Kyrie eleison, fanno seguire in forma responsoriale l'invocazione Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, oppure in greco Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Se invece non si usa il confesso di onnipotente, sono state create ex novo tre ampie invocazioni. La prima, Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. La seconda, Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. La terza, Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Qui si risponde rispettivamente con Signore pietà o Kyrie eleison, quindi con Cristo pietà o Christe eleison. E infine con Signore pietà o Kyrie eleison. Si è guadagnato, a mio parere, in comprensibilità, ma si è perso molto in ieraticità. Terzo punto, Gloria in excelsis Deo. Il Gloria è un inno liturgico e qui cominciano le possibilità di controllo sul foglio distribuito. Il Gloria è un inno liturgico che si apre con le parole del coro degli angeli nella notte di Betlemme, Luca 2,14. Il testo dell'ordinario della messa in lingua italiana, Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, traduce praticamente alla lettera il testo del Gloria del Messale romano, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Luca 2,14 è un versetto che ha sempre creato ai critici del testo, agli esegeti e quindi anche ai traduttori notevoli problemi, la cui conoscenza è preliminare alla valutazione della sua traduzione in lingua italiana. Infatti il testo greco, doxa en upsistoi in upsistois teo, kai epigese irene ent antropois eudokias, con il genitivo finale, è stato fissato in questa forma solo dopo un'attenta discussione che ha portato allo scarto della variante al nominativo eudokia, al fine di far conservare all'Immus Angelicus il parallelismo antitetico che contrappone doxa ad Eirene e nupsistois a Epiges e Theo a Enanthropois Eudokias. E il testo latino con in excelsis è attestato solamente da 6 codici dell'Itala, in quanto tutti gli altri hanno in altissimis, che poi continua nella Vulgata. Oltre ad doxa gloria, ad doxa, gloria in latino e anche in italiano, che è un importante semitismo sull'ebraico kabod, il primo stico presenta la formula entois upsistois, che nel Nuovo Testamento compare solo in Luca 2,14 e in tutti e 3 i sinottici nel grido di lode della folla che acclamava Gesù durante il suo ingresso di Gerusalemme. In Matteo e Marco il grido completo è Osanna entois upsistois. Invece in Luca è doxa e nupsistois, con corrispondenza perfetta con il nostro passo 2,14. Si tratta di un'invocazione a Dio, l'Altissimo, in ebraico Elion, dove il suo nome è sostituito secondo la prassi giudaica dall'indicazione della sua dimora. Prassi giudaica che però non viene più rispettata in Luca 2,14, dove per rendere possibile il parallelismo è stato aggiunto anche un ormai pronunciabile Theo. E la traduzione liturgica nell'Alto dei Cieli rende esattamente in excelsis, che è il grado positivo, riallacciandosi ad una tradizione che da sempre, anche se non universalmente, nel mondo biblico traduce perifrasticamente Luca 2,14 e gli altri passi indicati con nel più alto dei cieli, come il superlativo greco richiede. Per quanto riguarda il secondo stico, i critici ormai interpretano gli Anthropoi Eudokias nel senso indicato dal quarto e dal nono inno di Qumran, dove si legge figli del suo compiacimento, cioè del compiacimento di Dio, in ebraico bene rassonò, oppure da un passo della regola della comunità di Qumran, dove si legge eletti del divino compiacimento. Questa interpretazione conferma quella proposta da alcuni studiosi e poi ripresa dal Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament e dalle migliori grammatiche del Nuovo Testamento, le esaminate tutte le principali, che già prima dei ritrovamenti di Qumran suggerivano di leggere Anthropoi Eudokias nel senso di Anthropoi Eudokias autu, cioè Zeu. Alla luce di queste considerazioni, gli homines bone voluntatis, si dice eius oppure dei del messale romano, corrispondono ancora, sia pure con qualche difficoltà, agli anthropoi eudokias si dice autu o theu del testo greco, cosa che non è più possibile dire degli uomini di buona volontà dell'ordinario della messa in lingua italiana, dove la traduzione è sì a livello zero, ma essendo anche errata è a mio parere insostenibile, anche a parere del collega Falsini. Utili suggerimenti al riguardo possono essere tratti dal mondo delle traduzioni bibliche, dove il passo in questione viene interpretato nel senso di uomini ben voluti da Dio, amati da Dio. Infatti, la CEI, seguendo la Bibbia di Gerusalemme, che ha aperto la strada in questo senso, traduce gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. La traduzione italiana in lingua corrente traduce gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che egli ama, ma già prima Salvatore Garofalo traduceva gloria a Dio nei cieli altissimi e pace in terra agli uomini del suo beneplacito, la traduzione arcaica ma è esatta, e il valdese Giovanni Luzzi gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli con la maiuscola gradisce. Quarto punto, Agnus Dei. Le parole rivolte in Giovanni 1,29b dal Battista a Gesù, ide om nostu teu o aeron tena martian tu cosmu, sono impiegate 3 volte con adattamenti e in contesti diversi nel corso sia dell'ordinario della messa latina che di quello della messa in lingua italiana, cioè nel corso del Gloria, nell'Agnus Dei e mostrando ai fedeli il pane eucaristico. Nel Gloria l'espressione latina Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, punto, qui tollis peccata mundi miserere nobis, punto e virgola, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, viene tradotta Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, virgola, tu che togli i peccati del mondo, virgola, abbi pietà di noi. Punto e virgola, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Conglobando anche attraverso il cambio di punteggiatura che ho sottolineato nella lettura, la serie di vocativi con il successivo qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Viene tradotta con agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Terzo, mostrando ai fedeli il pane eucaristico, il celebrante nella messa latina esclamava, come in due codici soli dell'Itala e nel codice E dell'Afra, il codice E dell'Afra non è altro che il codice palatino conservato qui a Trento al Castello del Buon Consiglio, è uno dei codici più importanti fra il resto della Vetus Latina. Allora, mostrando al fedele il pane eucaristico, il celebrante esclamava Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, col doppio Ecce, che viene tradotto in italiano Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Le parole del Battista sono molto dense di significati e sono davvero comprensibili solo se si tiene presente che in aramaico Talia significa sia agnello che ragazzo o servo. E attraverso l'espressione messianica Talia de la A, si riferisce più che all'agnello pasquale, al servo del Signore, in ebraico Eved Adonai, di Isaia 53. Sarebbe interessante leggerlo tutto Isaia, ma non c'è tempo. Quando in greco si è scelto di tradurre con amnostu teu, anziché con pais teu, le parole del Battista hanno preso a raffigurare Gesù come il vero agnello pasquale, come del resto avviene in Giovanni 19,36. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. Il successivo O Aeron ten amartian tu cosmu, in Giovanni 1,29b, completa e per così dire spiega il precedente amnostu teu. In questo contesto Aeron non significa più, come nel greco classico, sollevare, alzare, sollevare per portare, trasportare, portare via, togliere. Sono i significati del Rocci o dell'Ida Scott questi. In quanto assume il nuovo significato di prendere su di sé, addossarsi, assumersi e quindi redimere la colpa, il peccato, la martia non solo di Israele, ma come avviene per l'agnello pasquale, ma di tutta l'umanità, cosmos. Tutti i sostantivi e i verbi greci, latini e italiani compresi nella formula dell'Agnus Dei sono dei cristianismi semantici diretti, in quanto detti sostantivi e verbi, pur esistendo anche nelle corrispondenti lingue correnti, nel greco, nel latino e anche nell'italiano dei cristiani, assumono significati speciali per indicare concetti, usanze, situazioni tipicamente cristiane. E il loro accumularsi nel breve giro di una frase ha costretto e costringe i traduttori a optare per una traduzione letterale puramente traspositiva, anche perché Giovanni 1,29b, al di là di ogni traduzione, rimane incomprensibile per chi non possiede un'adeguata istruzione cristiana o biblica. Per quanto riguarda i sostantivi, una volta chiarito il retroterra semitico, non ha mai creato problemi il passaggio ad Amnos, ad Agnus e quindi ad Agnello, passaggio che è scontato a pari della sostituzione di cosmos con mundus e quindi con mondo. La serie amartia, peccata, peccati, è pure indiscutibile sul piano semantico, ma ha sempre sollevato grossi interrogativi il passaggio dal singolare del greco al plurale del latino, che viene mantenuto anche nell'ordinario della messa in lingua italiana. E da parte mia, per varie ragioni, che sono sia filologiche, lectio difficilior, che esegetiche e teologiche, sono profondamente convinto che sia necessario abbandonare il plurale, che come si è già visto è lezione peculiare di soli tre codici della Vetus Latina, e riportare rigorosamente il testo italiano a quello greco, ripristinando il singolare in tutte e tre le ricorrenti di Giovanni 1,29b nell'ordinario della messa in lingua italiana, come del resto avviene nella Vulgata, nella Neo-Vulgata e nelle principali versioni moderne della Bibbia. Per quanto riguarda i verbi, il passaggio dal greco airo al latino tollo è stato addirittura automatico, in quanto tollo significava prendere su di sé, addossarsi, assumersi, già nel latino classico. Il verbo italiano togliere è invece meno ricco di significati del latino tollo. E ciò creano un pochi problemi, in quanto se togliere consente una traduzione meramente traspositiva e per così dire di grado zero, che è anche piuttosto riduttiva dal punto di vista semantico, eventuali soluzioni con assumersi, addossarsi, prendere su di sé, oppure redimere, sanno di parafrasi e sono in contrasto con i criteri di attenta conservazione che dovrebbero presiedere ad ogni traduzione dei sacri testi. Ne si può ricorrere nell'italiano corrente ad un arcaismo, traducendo come in Dante Purgatorio 16-18 l'agnel di Dio che le peccata leva, dove leva va inteso sia nel senso di sollevare che in quello di portar via, togliere, rimuovere, cancellare. Tanto che a conclusione di questa analisi di Giovanni 1,29b, ritengo che in italiano non ci si possa discostare da una traduzione del tipo «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Sono solo proposte, naturalmente. Punto. L'atto di fede del centurione. Nell'ordinario della messa in lingua latina, prima di comunicarsi, il celebrante si batteva tre volte il petto dicendo «Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo all'ablativo, et sanabitur anima mea». Pronunciando con la sola sostituzione di puer meus con anima mea l'atto di fede del centurione di Matteo 8,8. L'ordinario della messa in lingua italiana ha modificato profondamente questo momento della liturgia di comunione, mantenendo solo parte delle parole del centurione. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa è la nuova formulazione. Qui il problema è costituito. Oltre che dall'ingiustificabile non sono degno di partecipare alla tua mensa, dall'errore necessario della traduzione liturgica causato dalla volontà di rendere il più possibile verbum de verbo le parole del centurione. Avendo i casi, il latino ha potuto tradurre a livello zero alla monon eipe logo con sel tantum dic verbo, mantenendo senza alcuno spostamento la congiunzione avversativa, l'avverbio, l'imperativo e lo strumentale. L'operazione analoga non è però più possibile in italiano, dove si deve scegliere tra il tradizionale ma di soltanto una parola, il letterale ordinalo con la sola parola che c'è nella Bibbia concordata, ad esempio, e il più colloquiale basta che tu dica una parola della traduzione italiana in lingua corrente. Sesto punto e quinta pericope che sto esaminando. L'ordinario della messa ha il pater in forma piena, con le sette domande, tre in onore di Dio e quattro circa le necessità dell'uomo, come in Matteo 6,9,13 e in Didache 8,2. Il pater presenta pure esso numerosi cristianismi diretti che per lo più sono dei semitismi semantici, distribuiti con regolarità sull'arco di tutta la preghiera. Se si opta per una traduzione traspositiva del tipo che ho già definito di grado zero, essi, tranne in due casi, non creano grosse difficoltà ai traduttori. Diversamente vanno le cose se traducendo si vogliono mettere in luce i significati più profondi, anche teologici, delle singole parole. Le prime tre domande del Pater. La preghiera si apre in greco con il vocativo Pater, che viene tradotto in latino con Pater e in italiano con Padre. Termini tutti che, continuando uno dei valori dell'aramaico Abba e dell'ebraico Ab, si sono specializzati ad indicare la paternità di Dio, non più però come nell'Antico Testamento dove Dio è il Padre, soprattutto nel senso di guida sicura e forte del popolo di Israele, ma nella dimensione del Nuovo Testamento dove Dio è Padre per mezzo di Gesù Cristo e gli uomini, avendo ricevuto l'adozione, sono diventati figlio di Dio, al quale possono innalzare preghiere che iniziano con l'invocazione del Padre. Ce ne sono delle altre nel Nuovo Testamento. Giovanni 17,1, Romani 8,15, Galati 4,6, per indicare solo alcuni casi. Il successivo, oin tois uranois, designa i cieli, cioè la dimora di Dio, il luogo della sua basileia. E qui il semitismo non è tanto di ordine lessicale, infatti sia nel greco che nel latino classico, cui si ricollega l'italiano, è attestato il plurale cieli, perlomeno nel linguaggio religioso e in quello astronomico, quanto di ordine sintattico, perché il plurale continuo è il plurale anonimo dell'aramaico Shemaiah e dell'ebraico Shamaim. Per tutte queste considerazioni, ogni traduzione non può prescindere dal plurale e non deve trarre in inganno il successivo o se nurano, kai epiges, con il primo singolare chiaramente influenzato dal secondo. Altra espressione di origine semitica, che indica l'universo, il cosmo, il mondo intero, dove si auspica in primo luogo che venga santificato, rispettato, agiasteto il termine greco, il nome o onoma di Dio. Due, che avvenga la piena realizzazione della Basileia, del regno di Dio, che dal cielo deve estendersi anche sulla terra. E in terzo luogo, che la perfezione che è in cielo si estenda pure sulla terra, perché anche qui si compiano i disegni divini, cioè la sua volontà, il suo Thelema. Nessuno ha mai messo in discussione la corrispondenza tra onoma nomen e nome, ma si rammenta che dietro a questi sostantivi stanno l'aramaico e l'ebraico Shem, il cui uso sacro è quello di evitare di pronunciare il nome ineffabile di Dio. Ecco, ho letto male. Nessuno ha mai messo in discussione la corrispondenza tra onoma, nomen e nome, ma chi rammenta, c'è un interrogativo da dire, ma chi rammenta che dietro a questi sostantivi stanno l'aramaico Shem e l'ebraico Shem, il cui uso sacro è quello di evitare di pronunciare il nome ineffabile di Dio? E chi ricorda che la serie Basileia, Regnum, Regno è costituita da tre semitismi lessicali da riferire all'aramaico Malkutai e all'ebraico Malkut, mentre la serie Thelema, Voluntas, Volontà, va riferita all'aramaico Renta e all'ebraico Rasson? La prima domanda per i bisogni dell'uomo. Pane nostro, un quotidiano. Si giunge così al primo dei due veri problemi di traduzione cui alludevo in apertura di questa sezione dedicata all'analisi del Pater. L'esatta interpretazione di Epiusios è da tempo oggetto di attento dibattito da parte di tutti coloro che per qualche motivo si cimentano con Matteo 6,11. Il testo greco è «Ton arton emon ton epiusion dos emin semeron». La questione è sorta nel mondo dell'esegesi biblica, non nel mondo della liturgia, dove è opportuno, per non dire obbligatorio, rendere il quotidiano dell'ordinario della messa con quotidiano, dimenticando in nome del mantenimento della tradizione la querela relativa ad Epiusios. Credo tuttavia che anche chi si occupa dei testi liturgici debba riconoscere le ragioni di questa scelta che, come si vedrà, è non solo obbligatoria, ma anche migliore di altre prospettate. Chi si occupa della quarta domanda del padre di solito elenca e poi discute alcune possibili interpretazioni di Epiusios legate o a un etimo collegato col verbo eimi, esistere, o al verbo greco eimi, andare, anzi andrò sarebbe. Allora, prima possibile interpretazione. Se si collega Epiusios a usia, ton arton emon ton epiusion deve essere inteso nel senso di pane, ton epiten usian, cioè necessario per l'esistenza, oppure prendendo come riferimento due passi di Platone, una novità del lessico di Speak questa, nel senso di pane, ton epiusian, cioè essenziale che conduce alla vita. Secondo, se epiusios deriva dall'unione di epi e usia, ci troviamo di fronte a un pane per l'esistenza soprannaturale, donde deriva la traduzione con super substantialis, propria della maggior parte dei codici di Matteo Vulgata 6,11. Se Epiusios va inteso nel senso di epiten, usan e meran, si deve propendere per un pane per il giorno d'oggi, cioè necessario per ogni giorno, da cui deriva il quotidianus di Matteo Vetus Latina 6,11, di alcuni codici di Matteo Vulgata 6,11, dell'ordinario della messa latina, del parallelo Luca 11,3 e del parallelo Luca 11,3. Questa ipotesi è probabilmente da collegare ad Esodo 16,4, dove si legge: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo, il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno, in ebraico devar yom beyomo, che armonizza anche con la prima delle proposte precedenti, quella del pane necessario per l'esistenza. Se invece Piusius va inteso nel senso di epiten iusan emera, verbo eimi, si deve pensare ad un pane per il giorno a venire, futuro, cioè per il domani, che Girolamo traduce con crastinus ed è riconducibile per certi aspetti a super substantialis. Di tutte queste ipotesi, solo l'ultima trova riscontro sia nel lessico classico sia nel mondo del giudeo cristianismo. Basta un controllo dei dizionari per trovare tutta una serie di collegamenti. Determinante a questo proposito è una duplice testimonianza di Girolamo che nel suo commento a Matteo 6,11 scrive: a ciò che in latino abbiamo tradotto con supersubstantialem, commento io, abbandonando il quotidianum della vetus latina, in greco corrisponde piusion. Nel Vangelo detto secondo gli ebrei, in luogo di pane supersubstantialem ho trovato mar, che significa crastium, cioè di domani, di modo che il significato è il nostro pane di domani, cioè futuro, daccelo oggi. In un altro passo di Gerolamo, sul Salmo 135, secondo la numerazione della Vulgata, 136, secondo il testo masoretico, Girolamo ribadisce ed interpreta: nel Vangelo ebraico secondo Matteo così si legge: dacci oggi il nostro pane crastinum, cioè di domani, ossia dacci oggi quel pane che ci darai nel tuo regno. Ho ristretto le citazioni al minimo. Prima di tentare una conclusione su Piusios, ci sono ancora alcune osservazioni da fare su queste citazioni di Girolamo. Prima, in entrambi i casi viene utilizzato supersubstantialis come nella Vulgata, il che dimostra che nel 398, quando vengono composti i commentari in Matteum, è già stato abbandonato il quotidianus della vetus latina. Il mar, lo sillabo come è in Girolamo, M-A-A-R. Il mar dell'Evangelo giudeo-cristiano, che generalmente viene ricondotto dagli studiosi all'aramaico mahar con et, che significa domani, potrebbe anche essere ricondotto a mar con e, con un altro tipo di gutturale aspirata, che invece significa come verbo affrettarsi e come avverbio subito, con la conseguenza che l'interpretazione spiritualistica è sì suggestiva, ma non è per niente obbligatoria. I due testi sembrano in contrasto tra loro, infine i due testi sembrano in contrasto tra loro, infatti nel commento a Matteo 6,11 Girolamo registra ancora accanto a supersustanziali sia Mar Crastinus un'interpretazione vicina a Quotidianus. Invece nel trattato sul Salmo 135 l'interpretazione di Matteo 6,11 è puramente in chiave spiritualistica, tanto che al limite supersustanziali e Crastinus coincidono. Senza accorgersene Girolamo, riunendo nel commento a Matteo 6,11 i risultati dei primi due secoli di esegesi patristica, chiude un'epoca per aprirne con il successivo trattato sul Salmo 135 un'altra, fatta di sole interpretazioni spiritualistiche. Probabilmente esse hanno il loro punto di partenza in Giovanni 6,22-64, e cioè nel discorso nella sinagoga di Cafarnaum del giorno successivo alla moltiplicazione dei pani. Discorso che viene tenuto in una situazione che è ben diversa da quella del discorso della montagna, dove si inserisce il pater e dove qualche versetto più avanti si può leggere anche: non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini, ci avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena. E qui è Matteo 6,34. E accanto a questo, che nonostante tutto percorsi etimologici talora puramente teorici, mar eccetera, è forse l'argomento più forte a favore di Quotidianus, vorrei aggiungere un altro, che è una mia riflessione personale di questi giorni. La derivazione dell'Epiusios di Matteo 6,11 e Luca 11,3 dalla fonte Q, con la conseguente necessità di armonizzare la traduzione di Matteo 16 con quella del parallelo Luca 11,3, deve, riscontrandosi uno Sitzingleben di assoluta povertà anche materiale, in Luca, non si può che interpretare con Quotidianus. E qui ho fatto un altro errore di lettura, perché ho il testo un po' tormentato dalle continue correzioni. Scusate se torno indietro. La derivazione dell'Epiusios di Matteo 6,11 e Luca 11,3 dalla fonte Q, con la conseguente necessità di armonizzare la traduzione di Matteo 6,6 con quella del parallelo Luca 11, dove, riscontrandosi uno Sitzingleben di assoluta povertà anche materiale, non si può che interpretare e tradurre con Quotidianus. Un altro punto, la remissione dei debiti. La quinta richiesta del Pater concerne la remissione dei debiti ed è caratterizzata nel greco di Matteo 6,12 dall'uso a breve distanza del nomen reis acte o feilema debitum debito, ed è sostantivo d'agente o phileites, debitor, debitore, che risalgono allo stesso radicale del verbo feilo impiegato dal parallelo 11 e Luca 11:4b. Ofeilema è un deutero, un legomenon neotestamentario proprio di Matteo 6:12 e Romani 4:4, dove però ha un significato diverso. Nel pater è un chiaro semitismo semantico in quanto corrisponde all'ebraico ob e oba e all'aramaico oba, che inizialmente avevano il significato di debiti, di debito, e solo nel tardo giudaismo designavano comunemente il peccato. Pertanto, ofeilemata va tradotto, a mio parere, in modo convenzionale, con debiti e non con peccati, come si fa invece per Luca 11:4, dove contro Q è avvenuta la sostituzione con amartiai. Ne consegue anche che per tradurre il successivo ofeileitais e il parallelo lucano pantio feilonti vanno utilizzati debitor e debitore. Sto andando verso la fine, ma ci sono ancora due problemi legati alla sesta e alla settima domanda del pater, che pure possono essere correttamente tradotte solamente se si considera il loro retroterra semitico. Sesta domanda del pater: et ne nos inducas in tentationem, in latino. Un primo aiuto all'esatta interpretazione della sesta domanda, in greco kai me eisenenke se mas eis perasmon, che generalmente viene tradotto con e non ci indurre in tentazione, ricalcando il latino et ne nos inducas in tentationem, latino che è proprio sia di Matteo che di Luca, ci giunge dall'apparato critico delle migliori edizioni critiche del Nuovo Testamento, dove per Luca 11:4 viene registrata una lezione peculiare di Marcione, caime afes e mas eisen ectenai eis perasmon, e non permettere che noi siamo indotti in tentazione, che probabilmente ne costituisce anche la più antica interpretazione teologica. Poiché va da sé che Dio non può tentare l'uomo, nel senso di indurlo al peccato, la chiave interpretativa non va ricercata tanto nel significato profondo di perasmos e di peiraso, che risale all'ebraico e all'aramaico nissa, che come sostantivo significa prova, tentazione, e come verbo significa mettere alla prova, tentare, quanto nell'esatto valore di me eisenenkes, cioè del verbo. Dei molti passi neotestamentari con perasmos e peiraso, utili ai fini dell'interpretazione di Matteo 6:13, mi limito a discutere il solo Matteo 26:41, dove si riportano le parole dette da Gesù nel Getsemani ai discepoli che si erano addormentati. Gregoreite kai proseucheste, ina me eiselzete eis perasmon, che tradotte alla lettera danno vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. Se seguendo le indicazioni di alcuni studiosi si considera l'auristo eisenenkon, che esprime l'idea del portar dentro, introdurre, far entrare, indurre, come causativo dell'auristo eiselton, che invece esprime l'idea dell'entrare, in greco ci troviamo di fronte a un semitismo dovuto a una forma causativa di tipo ifil, che viene poi riprodotto sia in latino che in italiano. Ciò spiega in maniera convincente Matteo 6:13a, ma mette in rilievo quanto sia precaria la tradizionale traduzione italiana e non ci indurre in tentazione, che presenta almeno due difetti. Indurre nel senso di far entrare o è un arcaismo o è ormai in disuso. Il non ci indurre è una traduzione di grado zero che rispetto al greco sia rispetto al greco che rispetto al latino, che finisce per attribuire al soggetto che è Dio un'azione assurda e quindi non dà alcun contributo all'effettiva comprensione del testo. Con la conseguenza di lasciare aperto il problema, anche perché è possibile esprimere in italiano il causativo e quindi rendere in maniera comprensibile la sesta domanda del pater, solo se si parafrasa come nella traduzione italiana in lingua corrente fa che non cadiamo in tentazione, oppure, come mi suggeriva Monsignor Roger qualche giorno fa, non lasciarci cadere in tentazione. Entrambe queste forme di causativo sono registrate dalle migliori grammatiche della lingua italiana, soprattutto la nuovissima di Seriani, stampata dalla UTET come supplemento del grande dizionario di Battaglia e Barberis Parotti. L'ultima domanda del pater. C c'è libera nossa mano. Il pater si conclude con la domanda della liberazione a potu poneru, vera crux desperationis dei traduttori e degli esegeti del Nuovo Testamento. L'aporia deriva dall'impossibilità di stabilire con assoluta certezza il genere del genitivo poneru, in quanto al maschile esso designa il maligno e al neutro il male. Mentre in latino è stato possibile aggirare, l'ho messo tra virgolette, il problema e tradurre con se libera nossa malo, trasferendo all'ablativo la bivalenza del genitivo greco, chi traduce in lingua italiana deve scegliere se tradurre con malibraci dal mare oppure con malibraci dal maligno. Chi traduce nel primo modo opera secondo i criteri della traduzione di grado zero, riprendendo il radicale latino mal e sostituendo la desinenza latina con quella italiana. Alla fin fine non traduce nulla, non fa neanche un'interpretazione. Chi traduce nel secondo modo interpreta il poneru malo in senso escatologico, sulla base di una duplice considerazione. Nel Nuovo Testamento e soprattutto in Matteo 13,19 poneros con l'articolo generalmente indica il diavolo, il maligno. Seconda considerazione, il pater si apre nel segno di Dio e si chiude con la richiesta in parallelismo avversativo di essere liberati dalla tentazione e dal maligno. Ma le ragioni a favore del male sono forti quanto e forse ancor più di quelle a favore del maligno. E poiché esse sono elencate e discusse minutamente nel Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, al quale rimando, qui mi limito ad esporne riassuntivamente i dati più salienti, schematizzando anche molto. 1. Gli usi aramaici non permettono di trarre alcuna conclusione sicura a favore della forma maschile, perché non vi sa può significare sia dal male che dal maligno, e min satana, da Satana, è piuttosto improbabile. In una preghiera tratta dai frammenti della Genizà si legge «Salvami da ogni cosa cattiva». Il Talmud babilonese, nel trattato Berakot al 60b, ha una preghiera del mattino strutturata come le ultime due domande del Pater, in cui si chiede di essere preservati da una serie di mali riconducibili solamente a poneron neutro. Terzo, la combinazione di poneros con ruomai è limitata al solo Matteo 6,13b e d'altra parte ruomai con apo o ek non è mai riferito al diavolo, bensì a uomini e a potenze, oppure si riferisce alla redenzione escatologica come già avvenuto. Prima di concludere su poneros, ricordo anche che, mentre la Chiesa orientale lo ha sempre considerato un maschile, la Chiesa occidentale lo ha sempre considerato un neutro, con l'eccezione di Tertulliano e qualche altro, ci sono tutte le citazioni in apparato. E in questa direzione andava anche l'ordinario della messa in lingua latina, almeno quando subito dopo l'amen conclusivo del Pater, il celebrante continuava «Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris», che è tradotto ora con un meno solenne «Liberaci, o Signore, da tutti i mali». Come deve comportarsi a questo punto il traduttore del testo liturgico? E come il traduttore del testo biblico, che a differenza del precedente, ha un contesto meno bloccato? Deve tradurre, a mio parere, senza farsi condizionare dalla Vulgata e da chi lo ha preceduto, e con la consapevolezza che la sua versione deriva da una scelta esegetica. E deve scegliere tra male e maligno, evitando inutili artifici come malo, con la M maiuscola, adottato dalla Neo-Vulgata. E vado alla conclusione. Sospendo a questo punto l'analisi dei riferimenti biblici dell'ordinario della messa in lingua italiana, con la consapevolezza di aver affrontato le questioni principali, ma anche di averne volutamente tralasciato altre di non secondaria importanza, come ad esempio l'analisi delle parole della consacrazione. La campionatura prescelta è comunque sufficientemente vasta e tale da dimostrare che la traduzione dei testi liturgici tende ad essere per sua natura traspositiva o, come si è detto più volte, di grado zero, con tutti gli inconvenienti che essa comporta, il che è verificabile anche a livello statistico. Infatti, soprattutto se si riduce il materiale esaminato ai soli 10 punti più rilevanti, e cioè la traduzione di Dominus Deo Sabaoth, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, qui tollis peccata mundi, settantum dic verbo, pane nostrum quotidianum, dimite nobis debita nostra, et ne nos inducas in tentazione, e infine se libera nos a malo, Appare chiaro che tutte le traduzioni dell'ordinario della messa vanno in questo senso, cioè sono traspositive verbum de verbo. Però tre di queste traduzioni, 3 su 10, sono errate. E cioè, il non ci indurre in tentazione del Pater, il pace in terra agli uomini di buona volontà del Gloria, e il Madì soltanto una parola dell'atto di fede del centurione. In quest'ultimo caso è poi necessario anche riconsiderare se è davvero opportuno mantenere le attuali modifiche, o Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, oppure se non sia meglio tornare rigorosamente a Matteo 8:8. E almeno altre 2 su 10 traduzioni, dacci oggi il nostro pane quotidiano e ma liberaci dal male, possono essere messe in discussione a seconda dell'interpretazione teologica che si vuol dare alla quinta e alla settima domanda del Pater. Avevo iniziato con dei ricordi personali e desidero chiudere leggendo una recente riflessione di Mario Luzi, il maggior poeta italiano vivente, noto anche per la sua attività di traduttore dal francese. Il pensiero si intitola La difficile arte del tradurre e proviene da spazio, stelle, voce, il colore della poesia. Cito da Luzi. Cosa non deve mancare al tradurre poetico, ma io direi a qualunque tipo di tradurre? Cosa non deve mancare dunque al tradurre poetico? Mi piace che chi mi pone questo interrogativo abbordi il tema dal suo rovescio. Infatti ogni tentativo di prenderlo frontalmente con l'arma della teoria o della retorica è stato abbastanza fallimentare. Sul tradurre si sono dette molte sciocchezze, affermate sentenze presuntuose, fatte anche bellissime osservazioni e riflessioni. Ma teorizzare sulla traduzione non ha dato alcun frutto. Quel che in ogni caso non deve mancare da parte del traduttore è lo shock, voglio dire il contraccolpo profondo, occorrente a dare al testo mediato la vibrazione propria di un testo autentico. E credo che per il testo biblico, per il testo liturgico e comunque per i testi religiosi sia veramente questa la strada da battere, cioè tradurre col cuore e non solo con la ragione. Grazie.